Radio 24 Reportage. 25 aprile 1945, la liberazione di Milano, di Daniele Biacchessi. Siamo a Milano ed è il 24 aprile 1945. Il comitato formato da Luigi Longo, Sandro Pertini, Emilio Sereni, Leo Valiani dirama l'ordine dello sciopero generale a partire dal 25 aprile. Da Radio Milano Liberata a Sandro Pertini lancia così il proclama rivolto alla popolazione e a tutti i combattenti. Lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. Il piano insurrezionale divide Milano in 9 zone operative. Duomo, Garibaldi, Venezia, Vittoria, Vicentina, Ticinese, Magenta, Sempione, Sesto San Giovanni. E allora si parte. Le staffette girano per Milano in bicicletta e portano ai distaccamenti l'ordine del piano insurrezionale. Ma alcuni gruppi di ribelli sono già in azione da ore. Iniziano i primi fermenti in insurrezione nelle fabbriche. In testa ci sono gli operai di Pirelli, Innocenti, Borletti, Ercole Marelli, Magneti Marelli, Falche Magnaghi. La lotta si dispiega dalle periferie verso il centro. L'intera caserma della Guardia di Finanza di via Melchiorre Gioia, guidata dal colonnello Alfredo Maugeri, passa alla Resistenza, cioè al servizio del Comitato di Liberazione Nazionale. È il 25 aprile del 45. Il sole sorge nel giorno dei giorni. Il 25 aprile del 45 la ribellione di Milano al fascismo e al nazismo parte alle 6 del mattino. Leo Valiani, del Partito d'Azione, scrive l'ordine decisivo a matita su un biglietto che poi, in via Pergolesi, passerà nelle mani di Mario Rollier, commissario militare del Comitato di Liberazione Nazionale. Quel foglietto viene consegnato poi a Egidio Liberti, capo di Stato Maggiore delle Formazioni di Giustizia e Libertà, e va subito ad accendere i fuochi dell'insurrezione milanese in tutte le fabbriche, in tutti i quartieri della città. Aldo Chiattelli, comandante giallista, gira in bicicletta i quartieri di Porta Romana e Porta Vicentina. Bussa alle porte delle case e alle saracinesche, dietro le quali attendono i vari comandanti del distaccamento del Partito d'Azione. E proprio negli stessi istanti, in viale Montenero 32, dalla sede insurrezionale del comando delle Brigate Matteotti, Lelio Basso, Corrado Bonfantini diramano l'ordine di insorgere ai partigiani socialisti. Giovanni Pesce, nome di battaglia Visone, è l'ufficiale di collegamento tra i GAP e le SAP di fabbrica e la CLN centrale. Vedo la gente per le strade a parlare, a discutere, gruppi che gridavano pace, libertà, democrazia, non più guerre. C'era questo sentimento, queste voci che correvano e man mano questi piccoli gruppi aumentavano. 10, 20, 50, 100, 500. Già c'era l'opinione pubblica che era preparata all'insurrezione, cioè era convinto che stava avvenendo la liberazione di Milano. Il 25 aprile del 45, alle 8 precise nel collegio dei Salesiani di via Copernico, si riunisce il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia e proclama l'insurrezione. Assume tutti i poteri civili militari, scioglie i reparti armati fascisti, assicura il trattamento di prigionieri di guerra a quelli tedeschi e ancora nomina le commissioni di giustizia per la funzione inquirente, i tribunali di guerra, le corti d'assise popolari per quella giudicante al Palazzo di Giustizia. Qui Radio Milano Liberata. Del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo. E poi alle 13 inizia lo sciopero generale. Le colonne di manifestanti si formano ovunque, le fabbriche milanesi sono presidiate dagli operai in armi. Ogni reparto, ogni ufficio ha insediato il suo gruppo organizzato. Sparano i cecchini, sparano i fascisti dalle autocolonne in fuga, sparano i partigiani. Pili porta ordini, il lavoro è febbrile. Il 25 aprile è un giorno che vale 100 anni. Le staffette si mettono in cammino per la città, perché vogliono verificare di persona se tutti i comitati clandestini hanno messo in pratica l'ordine di occupazione delle fabbriche. 100 itinerari, 100 istruzioni da dare agli operai, 100 informazioni da ricevere e da trasmettere. Così Giovanni Pesce. Con alcuni gappisti li ho incaricati di andare a una fabbrica, altri in un'altra fabbrica, altri hanno accompagnato gli altri dirigenti del movimento di liberazione. Questo piccolo gruppo è sempre stato impegnato in quei giorni del 25 aprile fino al ritiro delle brigate. E in quelle ore concitate a Milano è in corso l'ultimo atto della Repubblica di Salò. Grazie alla mediazione del cardinale Schuster, Mussolini incontra l'arcivescovado di Piazza Fontana il generale Cadorna, comandante del Corpo Volontari della Libertà, e i rappresentanti del CNAI, Lombardi, Marazza, Arpesani. Il duce, Benito Mussolini, è invece accompagnato dal maresciallo Graziani, dal ministro Zerbino, dal sottosegretario Barracu, dal prefetto di Milano Bassi e dall'industriale Cella. Mussolini spera ancora di poter patteggiare, ma i tedeschi intanto stanno trattando la resa con gli americani. Si sente tradito, chiede una sospensione della riunione e promette di tornare all'arcivescovado dopo un'ora. Quindi si dirige verso la prefettura. Alle 7:30 Mussolini lascia il palazzo della prefettura in corso Monforte. Ma l'arcivescovado non tornerà più. Si dirige invece verso la Svizzera. Intanto nelle case dei milanesi brillano le luci delle lampadine. Così, tutto d'improvviso si illumina come in una sorta di rito magico. Gli appartamenti, i reparti delle fabbriche, i lampioni delle strade e delle piazze. Il lavoro paziente, delicato e pericoloso delle squadre operaie delle SAP, iniziato mesi prima, ha permesso di salvare gli impianti di produzione dell'energia elettrica, le grandi centrali della Valtellina dell'AEM, quelle che distribuiscono la corrente al capoluogo lombardo. Il 26 aprile del 45, il 4 battaglione della Guardia di Finanza occupa il palazzo della prefettura in corso Monforte di Milano. L'azionista Riccardo Lombardi è il nuovo prefetto della città. Il socialista Antonio Greppi varca il portone di Palazzo Marino, il primo sindaco della Milano liberata. Dalla stazione radio di Moribione, il comandante delle brigate Matteotti, Corrado Bonfantini, annuncia invece la liberazione di Milano. Siamo all'epilogo. Il 28 aprile del 45. A Giulino di Mezzegra, alle 16:10, Benito Mussolini e Claretta Petacci vengono posti contro il muricciolo d'ingresso di Villa Belmonte e poi giustiziati. Poco dopo, a Dongo, nella piazza del municipio, un plotone di esecuzione, composto da 16 partigiani, fucila tutti gli altri gerarchi condannati a morte. Il CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.